Italia in controluce. Proseguono al Teatro Nazionale di Milano le repliche di Mamma Mia, il musical con i suoni degli ABBA. Ambra Notari è entrata al Teatro Nazionale proprio dietro le quinte di questo spettacolo, che resterà per molti mesi in teatro, quindi un grande evento, soddisfando un enorme numero di prenotazioni e di richieste. Sono passati 40 anni da quando il quartetto svedese degli ABBA dominava la vetta delle classifiche mondiali. Costumi multicolor attillati, video irriverenti, fu il primo gruppo non anglofono a imporsi con forza in Europa. Oggi le loro canzoni tornano nel musical Mamma Mia, da 12 anni in giro per il mondo. 42 milioni di spettatori per oltre 2 miliardi di dollari di incasso. Dopo 270 città, lo show è a Milano. L'idea originale nasce 22 anni fa, quando Judy Kramer, oggi produttrice creativa di Mamma Mia, incontra Björn Ulvaeus e Benny Andersson, gli autori delle canzoni del gruppo nord-europeo. Propone loro di portare in scena una storia nuova, con i loro successi come filo conduttore. Così Mamma Mia, Dancing Queen, Super Trooper fanno da sfondo a una favola moderna. Donna, la protagonista, decide di aprire una taverna su una piccola isola greca. La figlia Sophie, prossima alle nozze con Sky, non ha mai conosciuto la vera identità del padre. Per avere una risposta, invita al matrimonio i tre amori di gioventù della madre. Il musical è diretto da Paul Garrington. Sul palco un cast tutto italiano che recita e canta nella nostra lingua. Le traduzioni delle canzoni degli ABBA sono di Stefano Dorazio. Stage Entertainment, casa di produzione europea di spettacoli musicali dal vivo, ha scelto di fare di Mamma Mia uno spettacolo italiano. Ci è riuscita non solo traducendo i testi delle canzoni, ma anche attraverso una serie di accorgimenti per offrire al pubblico un taglio inedito, verosimilmente tricolore. Lisa Angelillo, che nel musical interpreta Tania, racconta la ricetta. Abbiamo fatto dei piccoli adattamenti nel testo, nelle scelte, nei nomi, nella recitazione, nelle traduzioni, che hanno portato assolutamente la credibilità che sia la storia di una donna non più inglese ma italiana che passa la sua vita in Grecia circondata da amici italiani che vanno a trovarla su quest'isola dove lei si è un po' rifugiata dopo essere diventata una donna madre. Nel cast alcuni attori sono alla loro prima esperienza a questi livelli. Il ruolo di guida e leader è stato assunto da Chiara Noschese, attrice teatrale italiana di grande esperienza. Chiara interpreta la protagonista donna, ragazza madre che affronta con spirito e iniziativa gli ostacoli della vita. Faccio tutte le riparazioni dentro casa mia e anche donna le fa. Non sono madre, però insomma so fare tante cose. Sono una donna che non è proprio una donna, ma è un po' donna uomo. Giovane, ma dall'ampio curriculum, è Elisa Lombardi. L'attrice veste i panni di Sophie, la figlia di donna alla ricerca del padre. Una grande fortuna essere qua, sono veramente orgogliosa di essere, di far parte di questo cast, di avere questo ruolo, è molto importante. E sono contenta di lavorare con Chiara, perché ho lavorato con lei 4 anni fa e quindi ritrovarla qua come mamma nel palco è bello. In scena 31 artisti tra attori, ensemble e swing. L'orchestra si esibisce dal vivo, una macchina imponente da 8 repliche alla settimana. In tutti i teatri in cui è già stato presentato ha ottenuto ottime critiche, grazie soprattutto alla capacità di coinvolgere e trascinare lo spettatore in una spirale emotiva in cui è difficile non immedesimarsi. Ai saluti finali il pubblico è sempre in piedi a ballare. L'edizione della mattina di quest'oggi, 29 settembre, di Italia in controluce termina qui. Radio24.it, il nostro sito per riascoltare questa e altre puntate. Torniamo oggi con altre storie alle 13.30 su Radio 24.